Quando noi amiamo qualcosa o qualcuno, ne parliamo volentieri e anche a lungo. Per questo io sono felice di accompagnarvi per i prossimi circa 3 settimane a parlarvi di alcuni personaggi della Bibbia che sono ricorrenti nel cosiddetto periodo d'oro della realtà ebraica, cioè il tempo di Davide. È cominciata ieri con la lettura del primo capitolo del primo libro di Samuele, dove si è parlato di Anna, la mamma futura di Samuele. Samuele non era ancora concepito in lei, era una donna sterile e ottiene da Dio questa grazia di un figlio. E bisognerebbe, io vi suggerisco, leggete il libro di Samuele, dal primo libro, è facilissimo. È un racconto, è una storia. Come sarebbe bella conoscerla così a memoria, da raccontarla a memoria ai nostri nipoti. Starebbero lì a bere. E intanto noi gli spieghiamo la Bibbia. Oggi c'è un altro personaggio. Corre la Bibbia, perché là era il capitolo primo, qui siamo già al capitolo decimo. E qui presenta Saul. Cos'è successo in questi 9 capitoli? È successo che il popolo, ormai stabilitosi nella terra promessa, si rafforza e dice: dobbiamo diventare anche noi una potenza, ma non è possibile se non abbiamo un potere centralizzato, vogliamo un re. Samuele tenta di dissuaderli e di dire, che tanto è diventato sommo sacerdote, Dice, ma no, ma è il nostro Dio che ci guida. No, noi vogliamo un re per essere come tutti gli altri popoli. Io devo correre via, ma sarebbe interessantissimo. Venite quando leggiamo la Bibbia, venite, che dedichiamo proprio mezz'ora, un'ora a leggere parola per parola. Vogliamo essere come gli altri popoli. Bella roba, dovremmo dire. Comunque scelgono lui e oggi viene raccontato come viene scelto, non so se vi siete accorti, c'è un po' anche buffo il racconto. Lo cercano e lui è nascosto. Ecco, è nascosto in mezzo ai bagagli. Era così ansioso di diventare re, figurati, che va a nascondersi. Lo scelgono, poi sentiremo nelle giornate successive come si sviluppa questo cammino con Davide, con Saul, che comunque fu un grande re, anche se fece diversi sbagli che gli costarono il rifiuto da parte di Dio. Dio lo toglie di mezzo, lo fa morire in una battaglia. E trova come suo successore Davide, che fu il grande re Davide. Dicevo che comunque con i suoi sbagli, che magari avremo modo di sottolineare perché è un grande insegnamento, anche lo sbaglio, per non rifarlo noi, avremo modo di scoprire le grandi azioni anche che ha fatto. È stato un grande personaggio, pur se controverso. E questo lo dico in base anche all'ultimo versetto del brano di oggi. Anche Saul tornò a casa a Gaba e lo seguirono uomini valorosi ai quali Dio aveva toccato il cuore. Dunque, sebbene la sua elezione sia stata controversa e non sia stata approvata da Samuele, per dire come anche i grandi profeti possono errare. Ricorderete anche la storia di Natan, che suggerisce a Davide di costruire il Tempio. E poi Dio gli parla e dice: no, hai sbagliato a suggerire. Oh, amici, come sarebbe interessante prendere la Bibbia e farla passare e vedere che nessuno è al di sopra di ogni sospetto. Mica che il genitore ha sempre ragione. Mica che il parroco ha sempre ragione, mica che il vescovo ha sempre ragione, ma neanche il Papa. O sono discepoli, tutti, dello Spirito Santo, che la vera guida della Chiesa, la vera guida del mondo è lo Spirito Santo. Comunque avremo modo le prossime giornate di sentire come si sviluppa questa che comunque viene chiamata con un termine molto chiaro e molto bello, la storia della salvezza. Cioè come Dio salva il suo popolo e attraverso il suo popolo salva l'umanità.